discussione. Se qualcuno vuole porre domande. Se si vuole fare la discussione, ma su tutte e tre le relazioni di questa mattina, se c'è volontà, ecco. Certo, noi non costringiamo nessuno. Se c'è la volontà, noi accettiamo. Chi vuole intervenire nelle relazioni di questa mattina? Dalla prima, la seconda, la terza? In ordine, chi? Il professor Dugano? No, solo nell'ordine. Allora, su Moreschi. Vous avez dit que dans la fin du premier livre du Contre Jovinien, sur les dossiers sur le mariage, il y aurait peut-être un intermédiaire de Porphyre entre Aristote, Théophraste, etc. Alors j'aimerais savoir comment vous arrivez à cette hypothèse. Non è la mia ipotesi. È la ipotesi che già aveva avanzato Bickel. Bickel ripresa poi con più prudenza da Courcelle e Hagendahl. Il problema è quello di sapere quale opera di Porfirio fosse stata usata. Mi pare che ancora non si sia trovato. Siamo in un impasse, mi pare, al riguardo. E cioè? Ah, bon, non, mais je pensais que vous aviez trouvé quelque chose. Ah, no, no, no, però in questo momento no, no. Ah, bon. Sì, certamente. Il professor Leandro, su quale vuoi intervenire? Sempre. Sì, sì. Quando avrebbe esaurito questa, passerei con le altre, suppongo, sì. No? Dunque, è un'integrazione di una cosa che tu certamente sai, ma poiché non l'hai detta, io ritengo che sia utile ugualmente forse sottolinearla. E riguarda una fonte di Girolamo per il topos che tu hai menzionato della bella prigioniera. Ah, sì, sì. Siccome tu hai detto topos comune nel IV secolo, allora tanto vale dire anche da dove deriva. Ecco, certo, già che ci sei lo dici tu appunto, perché è origine. È origine. Però appunto, oltre a questo, sì, sì, certo. Oltre a questo, c'è forse da ricordare un altro topos che è anche originiano, e pure questo ricorre in Girolamo e in altri scrittori del IV secolo, Gregorio di Nissa, eccetera. Ed è quello delle spoglie degli egiziani, che è la stessa cosa. Sì. Cioè prendere i vasi d'oro. Senz'altro. Sì, avrei dovuto, certo. Che poi è l'esodo. Certo, senza dubbio, avrei dovuto dire Gerolamo nell'Epistola 21, sì, avrei dovuto dirlo, che effettivamente già in poi c'è nell'Esodo, ma c'è nella dottrina cristiana di Agostino anche. Sì, è un topo, sì, è verissimo, sì. Chi altro interviene? Nessun altro? Sei tu che volevi intervenire? Su quella di Nazzara. Ah, su quella di Nazzara. Allora, sono Nazzaro. Oui. Je souscris tout à fait à l'éloge de l'intertextualité, mais je pense que c'est encore plus compliqué que cela, parce qu'il ne suffit pas de repérer un texte ou un souvenir, il faut aussi voir comment ce texte, et en particulier pour les textes bibliques, comment ce texte a déjà été interprété. Et je prends un exemple que vous n'avez pas, je pense, remarqué dans le texte 2. Quand il dit « Ille predicatur beatus, qui statim ut coeperit cogitare, interfecit cogitatus, et elidit eos ad petram ». Eh bien, c'est un texte d'un psaume qui est là en dessous, mais tel que l'interprète Origène. Si. Et donc, c'est pas seulement la Bible, c'est la Bible déjà interprétée. Si. Et cela vaut également, même pour le texte de Cyprien, où il utilise Cyprien, mais il est allé revoir Ovide également. Et donc c'est beaucoup plus compliqué encore que simplement deux choses. Il faut tenir compte également de l'interprétation qui a déjà été donnée, qu'il suit ou qu'il écarte. Hein? Mais je suis tout à fait d'accord sur ce... J'ai fait tout le commentaire de cette lettre, comme ça. Io ringrazio il professor Duval di questa precisazione, ma che per me, per la verità, era implicito, sia nella premessa di carattere introduttivo e sia nella conclusione, perché uno che voglia praticare la intertestualità non è così sciocco, diciamo, da prendere dei testi lontani dal tempo e di non tenere presente della catena che in qualche maniera, è vero, unisce il testo di partenza e il testo di arrivo. Questo è per quanto riguarda la giustissima preoccupazione del professor Duval. Nel concreto, per quanto riguarda il testo numero 2, c'è il caso che io abbia studiato proprio, diciamo, questo versetto del Salmo 136 a proposito della parafrasi salmica di Paolino di Nola, e proprio lì io facevo tutta la storia, ovviamente, perché voglio dire, se noi pensiamo che possiamo parlare di intertestualità mettendo insieme due testi lontani nel tempo e nello spazio tra di loro, e beh, tutta più possiamo così fare un lavoro all'acqua di rosa, ma certamente un lavoro intertestuale. Quindi io sono perfettamente d'accordo che quello dell'intertestualità è un lavoro compliqué, lo viviamo sulla nostra pelle, nel senso che si lavorano per settimane salvo poi arrivare a conclusione. Quindi io sono perfettamente d'accordo e le dico che questo, diciamo, tutta questa interpretazione dei figli che sono i pensieri, le opere, cioè le troviamo in Origine, troviamo anche in altri autori, in Paolini di Nola, e anche in quel lavoro di Paolini di Nola io arrivavo addirittura a un poeta moderno Quasimodo, cercando di tracciare anche i feeling in qualche maniera collegavano, diciamo, Quasimodo non direttamente al Salmo, ma attraverso, diciamo, quindi sono, voglio dire, quindi lei ha fatto bene a sottolineare, diciamo, la cautela di questi lavori, altrimenti si rischia così, insomma, di far solo colpo ma di non andare alla sostanza. Vuole aggiungere qualcosa? No. Sì, e certamente, e questo già l'ho scritto, voglio dire. Allora. Dunque, il mio primo intervento, perché è duplice, su due testi. Il primo è il testo numero 5, che tu hai omesso di illustrare, quindi te lo chiedo. Io qui c'ho una spia, vengono citati due salmi e poi uno studio di Paul Anten. Siccome i salmi sono due, deduco che Anten ne abbia trovati due testi. Io ce ne trovo tre, quindi è questo che ti chiedo. No, va bene, allora... Sono tutte e tre, allora. Allora, sì, allora... Chiarisco subito, che è anche una questione così di celerità. Tu volevi mettere un numero, no? Chiedo scusa. Sì. Potevi metterci il numero. L'altro probabilmente invece è sfuggito, ovviamente si tratta di Coelet, ed è il testo numero 9, dove accanto ai testi da te indicati, Arsamandi, eccetera, ci può stare benissimo, io credo, Ecclesiaste 9, 10, se ricordo bene, capitolo 10. Sì. No, è sfuggito solo materialmente. Sinte vestimenti. C'è. Sì, c'è. Questo dovrebbe segnarlo. Bisognava segnarlo. Sì. Nella parte scritta, no, hai perfettamente ragione. Sì. Mi pareva ovviamente più, cioè, ho dedicato un po' di tempo in più all'analisi di questo intertesto ovidiano, appunto perché è stato segnalato e negato nello stesso tempo dal Godelli, il quale a un certo punto dice: ma si tratterà di una coincidenza. Ora, se noi lavoriamo sui testi, ci accorgiamo che qui coincidenza non c'è, nella maniera più assoluta, però... cioè è una imitazione reale. Poi è chiaro che questi padri della Chiesa, Girolamo, ma prima di Girolamo, insieme a Girolamo, Ambrogio, Agostino, è ovvio che hanno sempre, come dire, queste due correnti, una corrente biblica che talora è sottesa e qualche volta in maniera evidente viene messa in evidenza proprio il testo classico che loro o vogliono in qualche maniera citare, salvo trasformarlo, modificarlo, negarlo nella sostanza, oppure qualche volta se ne servono come fatto artistico, come in questo caso. Dice il falso monaco, che cosa fa? Non solo non dovrebbe imitare il damerino a cui si rivolge Ovidio, ma qualche volta fa ancora di più, lo imita ma addirittura in peggio, quindi si arriccia pure i capelli. E poi naturalmente anche questo, il testo qui è tagliato in maniera approssimativa, perché quando bisogna fare degli esempi, gli esempi, perché il testo più generale, più ampio, è un po', e quindi lì poi c'è una citazione più diretta del Coelet. Che ti... Sì, sì, sì. Sì. C'è pure Ole anche Ole. Sì, sì, sì, fumo, insomma, sì. Ma questo è già anticipato nei righi precedenti e sarà seguito dopo. Quindi ho dovuto, come dire, insomma, anche a costo di approssimazione, ridurre il testo, altrimenti avrei portato un solo testo e su quello saremmo stati. Comunque ti ringrazio di entrambe le, quello del passero solitario, poi diciamo, vabbè, quello è più noto, chi di noi non se ne è occupato, anche se poi non c'è scritto nulla. Se c'è qualche altro, il suo nome? Lui è genovese, ma insegna a Catania. No, no, no, faccio meno strade, vengo qua. Vengo solo fino a Trento. Niente, volevo soltanto segnalare una cosa, probabilmente è superflua, che se non ricordo male, sempre a proposito del passo numero 2 della sua fotocopia, la citazione del Salmo 136 con relative esegesi, Petra, Autemest, Gris, mi pare che ricorra nel prologo di Contreunomio di Gregorio di Nissa. Con relative esegesi. Quindi contro un uomo. Mi pare, nella parte proemiale dell'opera. E poi viene usata sicuramente in modo del tutto mascherato nella biblioteca di Fozio, dove Fozio stronca le opere di Eunomio, cita il Salmo, però senza dire che era del Salmo, e poi ci ricamo un po' sopra stroncando completamente tutte le opere di Eunomio. Mi pare che sia il codice 137, ma posso sbagliare. Insomma. Ti ringrazio. Che t'altro? Sì, ma è chiaro. Sì, no, no, questo sì. Questi due testi non... Ma d'altra parte, nella intertestualità, è questa che è la cosa bella, cioè che uno non riesce mai completamente ad esaurire eventuali, insomma, il problema è quello poi di vedere quali testi c'entrano di più, quali di meno, ma per lo spettro si può sempre più allargare, quindi poi alla fine sono quegli studi che danno più soddisfazione, perché consentono poi, diciamo, che ognuno porti le proprie competenze di studio, di lavoro, di consuetudine, eccetera. Se qualche altro vuole intervenire su Benestina, je voudrais à la fois dire que je suis d'accord et en même temps apporter une objection que j'ai déjà apportée dans un compte-rendu de Henning, mais qui est devenue plus forte après la découverte d'un texte que je voudrais signaler à tout le monde, parce que c'est un texte qui va être publié bientôt et qui apporte un fait important pour la controverse pélagienne. Alors, l'objection, c'est que la lettre 73, dans la transmission psi, ne comporte pas d'incipit, ne comporte pas d'adresse. Et est-ce qu'on ne peut donc pas penser plus facilement à un accident de la transmission plutôt que à une coupure, parce que Jérôme n'a pas pu laisser une lettre sans adresse. Et à partir du moment où on admet qu'il y aurait eu une coupure faite par un scribe, mais pas par Jérôme, bien un certain nombre de choses deviennent, je ne dis pas toutes, hein, mais certaines s'expliquent. Alors, je crois qu'il faut envisager cette hypothèse, ne serait-ce que pour la repousser. Mais François Dolbeau vient de découvrir un sermon dont nous avions l'essentiel, sauf le début. Et que comporte le début ? Eh bien, le récit par Augustin des derniers événements de Bethléem avec le saccage du monastère de Jérôme. Et ceci a été coupé par les scribes parce que ça n'avait pas d'intérêt. Mais cette découverte, pour moi, est importante parce que je ne sais pas si vous savez que j'ai fait le commentaire de la lettre 19 dans la bibliothèque augustinienne et Henning a contesté la date en disant que la lettre n'était pas de 416 comme je l'avais pensé, mais de 418. Le texte découvert me donne raison. le dirò che la relazione odierna fa parte di uno studio molto più ampio, che è quasi completo, che è questo, su tutte le 21 lettere. E quando per ventunesima io prendo in esame al capitolo 2 la lettera 19 di Idiac, discuto la data, però non dimostro di non accettare il 419, cioè ho ripercorso tutto il discorso di Hennings e sinceramente certo, non concordo col 19, anzi sentendo lei oggi nello studio completo sfumerò meno su questo punto, dicendo che in effetti la lettera è del 416. Praticamente la lettera 19 di Iviac, fra il resto, è una lettera che prende in considerazione fatti del 415-416, non fatti successivi. No, ma il texto. In effetti ho presente, perché l'ho visto 10 giorni fa, il suo commento a questa lettera, e effettivamente la lettera è del 416, ma non può essere di altre date. Ma il texto che ho découvert è a mettere in relazione con questa lettera. Et donc là c'est clair, mais je tire argument non pas pour la lettre 19 qui n'est pas en question ici, mais je tire argument du fait que les copistes ont coupé en particulier les débuts de sermons d'Augustin, mais ici peut-être un début de lettre qui était à la fois très, très événementiel, qui n'apportait pas grand chose au sujet. Et de la même façon, donc, on l'a fait pour des sermons, on a pu le faire pour des lettres, parce que tous les manuscrits que vous avez sont des manuscrits, je les connais pour les avoir aussi regardés, nous n'avons pas pour ces lettres-là de manuscrits antérieurs au 8e, c'est même 9e l'essentiel. Donc le travail a pu être fait à l'époque où on a rassemblé ces corpus de sermons, ces corpus de lettres. On coupe ce qui est dépassé, ce qui est vieilli, ce qui ne peut plus servir. Il faut imaginer que les copistes du passé ne respectent pas comme nous les textes. Ils copient des textes qui vont leur servir à eux. Et donc tout ce qui ne sert pas... Il le coupe. Alors, c'est une objection, vous la regardez. Bene, monsignore, è una scuola di alta filologia, questo centro di religiose. Oltre a teologia, ma di alta filologia. Non è mai troppo, è sempre poco rispetto a quello che si dovrebbe. Sappiamo cosa costano queste cose e quanto tempo e quanta coscienziosità occorre applicare. Però sinceramente mi sto domandando se al nostro tutto, ogni cosa al suo posto. E tra filologi di mestiere, specialisti, certamente è obbligatorio e utile, anzi non solo il dialogo, ma la discussione e la critica. Ecco. Se questo basti a capire un po' più sinteticamente sia la reazione umana di questi uomini che hanno agito e interagito come persone vive e intelligenti che si adoperano, si stanno muovendo spiritualmente in una situazione, sia anche a cogliere quello che forse a noi ancor più interessa, l'apporto ad una espressione autentica o ad una ricerca viva della formulazione della fede nella situazione portata in rapporto al caso nostro. Su questo un istituto di scienze religiose con le persone che ha di fronte e un incontro che inevitabilmente, volere o non volere, si chieda il significato poi di tutto questo, il valore di cogliere, il valore non puramente analitico, ma insomma vitale di tutto questo complesso di indagini. Ecco, perlomeno lasciate che l'interrogativo qualcheduno lo ponga e ve lo consegni. Bene, è un dialogo che non è per infinito. Comunque la scienza è scienza, e allora dovunque si sia è sempre benvenuta. Perciò anche una scuola di teologia è necessario che venga una verità filologica come la verità teologica. Ora sta succedendo, Monsignore, che questa verità filologica, scienza filologica, sta scomparendo da quello che era l'uso, diciamo, delle scuole, dei grandi seminari che si avevano nel 600, nel 700, nel 800. Io quando vedo i trattati di retorica del 700 mi metto le mani nei capelli, guardo un po' questi, come sono bravi. Dove ora sta tutta questa scienza? E allora uno ha i suoi dubbi, cioè non bisogna mai aver paura di fare sempre di più. E per le scuole nostre occorre una maggiore insistenza su quella che è la filologia, la teologia, tutto sempre di più. Oggi tutto è sommerso, si mette in non cale, si fa sommerso, sappiamo tutto e non sappiamo tutto. E su questo è bene che una scuola come la nostra può anche reagire in un certo senso, ad evitare la facilità con cui oggi si maneggia il latino, il greco, il latino, come se non fossero utili più. Queste ora purtroppo quello che succede nelle scuole teologiche, nei grandi seminari oggi, parlare del latino eccetera non ha più senso, e non è facile, ci credo, non ci viviamo molto a questo mondo, e allora se si fa un po' di più da voi qui è sempre. Allora, scusate la nostra chiacchierata, non siamo vecchi amici, ci vogliamo bene, allora potremmo continuare sino all'infinito, ma siamo d'accordo con la sostanza. Allora, la seduta è sciolta. Una comunicazione di servizio, poiché il pranzo è dopo le 13, ecco, c'è tempo per un aperitivo, per vedere un attimo la biblioteca dell'istituto, ecco, per qualcos'altro comunque. Stasera invece è l'Ateneo. Il faudrait segnaler che vous célébrez la rencontre de Jérôme et d'Augustin le jour de la Saint-Ambroise. Non mais les textes là peuvent être lus d'ailleurs, si les gens ont la prise, avaient la traduction, ce sont des textes extraordinaires parce que ce sont deux grands esprits qui se rencontrent, mais la charité elle est du côté d'Augustin. C'est extraordinaire cet évêque qui devant pourtant un aîné hein, mais se conduit avec une charité extraordinaire. Ça, ce sont de très très beaux textes. Mais je vous dis, moi, je ne dis pas que Jérôme n'ait pas pu faire des coupures lui-même, mais je me demande si ça n'a pas été fait par autre que par lui. Par autre que par lui. Ça, parce que les copistes ont l'habitude de copier, de couper les textes. È tutto utilissimo. Sì, sì, però sì, sì, uno che alla fine si domanda, come io mi domando, che cosa è successo tra questi due uomini? Perché, quali sono le ragioni di questo, che statura spirituale o che forma spirituale avevano? Ecco, chiederebbe che dopo questa parte strumentale, che è indispensabile, altrimenti il discorso viene fatto a fantasia, che dopo questo venga un po' a, più a comunicarsi con l'aiuto. Mais il faudrait ajouter deux choses, l'une du côté d'Augustin, l'une du côté de Jérôme. L'une du côté d'Augustin, c'est qu'il a prêché sur ces questions devant le peuple. Et il a expliqué que si on admettait que saint Paul avait menti, eh bien, toute l'écriture ne pouvait plus être crue. Donc il y a une question pastorale dont n'avait pas conscience, oui, mais dont n'avait pas conscience Jérôme. Jérôme acceptait qu'on puisse mentir comme ça. Mais Augustin, devant, peut-être que certains pensent que l'on peut ne pas dire toute la vérité. Mais pour Augustin, on ne peut pas. Si le peuple croit que moi, évêque, je ne dis pas toute la vérité, c'est plus possible. Et ça, cet aspect-là, Jérôme ne le connaissait pas. Et Augustin ne lui a expliqué, mais en quelques phrases, tandis qu'il y a tout un sermon sur cette question. Et alors, la deuxième chose, c'est que, à la fin, Jérôme a reconnu son erreur, non pas en disant je me suis trompé, mais dans un texte, il dit que la dispute a été réelle. Et donc, il reconnaît l'opinion d'Augustin. Après, un peu comme on commence par se battre, et puis en disant, il y avait peut-être sa raison. Oui, merci. Il a d'ailleurs, ça fait déjà une annonce, sinon No, ma figurati. No, mi aveva interessato molto questo testo di Agostino, questa lettera per la questione. Convince la mia problema di odio. No, mi pare. Sì, sai, io non ho la competenza, non ho la competenza adeguata, però mi pare persuasivo, però ecco, c'è questa. Sai cos'è che io non ho voluto intervenire, però normalmente taglio, insomma, inizio la fine, non sono mai a metà. Cioè è difficile che quello, certo. Ecco, cioè io lo dico bene, potrebbe essere stato un copista, eccetera. Però si rovina, si inutila, cioè fa un po', cioè nessuno fa così normalmente. Sì, sì, perché poi è selettiva, insomma. Poi bisogna vedere l'altra cosa, vedendo molti vengo codice di fisica, cioè si vede che, non so, sul codice di foglio, tanto che ci sta un sacco di roba, a volte basta, però a volte scade la lettera, altrimenti la lettera per fuori, tanto per dire. Ecco, e guardate, c'è l'idea che forse c'è qualcuno meno di ieri, per dire, questo scritto l'hai praticato, fatto da 355 356 355 fareste benissimo, foglio bene dettagliato, leggibile, eccetera. Per essere proprio il foglio, della sapendo che sono sbagliato, è sbagliato il contatto. Il foglio della 73 è breve ritardo dovuto ai soliti problemi di segreteria. Siamo giunti all'ultimo quarto, no, potremmo dire, del nostro convegno, e cedo senz'altro la parola al professor Nazzaro, che presiderà la seduta del pomeriggio odierno. Allora diamo subito inizio a questa sessione dei lavori, che riguarderà il Nachleben di Gerolamo, e quindi una cosa molto affascinante, come già dicevamo stamattina, in questa storia ininterrotta che porta fino all'umanismo e naturalmente va anche oltre, e che investe, come voi sapete, non solo il campo letterario ma anche il campo artistico figurativo. La lezione che ci terrà ora, la conversazione che ci terrà ora Maria Pia Ciccarese dell'Università di Genova, ha come titolo Sulle orme di Gerolamo, la exposizione Iob del presbitero Filippo. A te la parola. Sul punto di iniziare questo mio intervento, a prevenire ogni equivoco, non posso esimermi dall'invocare la benevola indulgenza dell'uditorio, che potrebbe sentirsi tradito nelle sue aspettative. Ricordo ancora l'esigente monito del mio professore d'italiano, che a scuola ingiungeva di non uscire assolutamente fuori tema, pena l'annullamento del compito. Questa sorta di imperativo categorico mi ha perseguitato durante tutti gli anni del mio apprendistato studentesco, e se quel professore fosse ora qui presente, non ho dubbi che godrebbe di avermi colto finalmente in flagrante. In effetti, rispetto al tema assegnato a questo convegno, la mia relazione potrà apparire a dir poco decentrata, se non addirittura extravagante. Di qui le mie scuse preventive, con l'unica attenuante di aver ottenuto il complice consenso degli organizzatori per questa mia scappatella scientifica. Resta il fatto che in un convegno incentrato sulla figura di Gerolamo io non mi occuperò se non marginalmente. E tuttavia ho la presunzione di ritenere che anche questa mia divagazione potrà contribuire a gettar luce su un aspetto poco studiato dell'attività geronimiana, quella di Gerolamo maestro di esegesi, e sulla ricezione del suo insegnamento nella cerchia più vicina dei discepoli. Un buon discepolo è sempre la miglior lode per il maestro. Sappiamo ben poco della scuola biblica, l'espressione di Grimomont, che si era costituita a Betlemme, dove a partire dal 386 la comunità monastica fondata da Gerolamo aveva fatto dell'attività esegetica il suo centro di interesse privilegiato. Anche se è azzardato parlare di una scuola stricto sensu, come istituzione organizzata, alla maniera origeniana intendo, non è difficile immaginare quanto una personalità così entusiasticamente operosa debba avere spronato la volontà di collaborazione nei giovani che lo avevano seguito, trascinati dal suo esempio. Di qualcuno di costoro conosciamo anche il nome, come quel Rufino detto il Siro, cui oggi si rivendica la paternità della revisione, la Vulgata, del testo paolino. Di altri abbiamo notizia attraverso le fitte pagine dell'epistolario geronimiano, che pullula di figure di contorno alla sua attività letteraria. Ma della maggior parte ci sfugge la reale identità, smaterializzata nell'indistinta consistenza di una folla anonima. E anonimo resta purtroppo il frutto migliore dell'insegnamento geronimiano, concretatosi in una serie di opere di imitazione di argomento esegetico, con cui gli apprendisti esegeti si sforzavano di calcare le orme del maestro, con scarsi risultati a quanto pare, se neppure il loro nome è sopravvissuto nella memoria storica. Che anzi questa produzione scolastica proveniente dal circolo geronimiano si è per tempo avvalsa dei privilegi della pseudoepigrafia, ammantandosi del nome del più illustre esegeta per assicurarsi almeno un'immediata circolazione negli ambienti dotti del tempo. Appunto su una di queste opere, che in mancanza di precisa attribuzione gli studiosi sono soliti definire pseudo-geronimiane, io voglio ora richiamare l'attenzione dell'uditorio, sottraendola alle nebbie dell'anonimato per restituirla al suo legittimo autore. Nella grande edizione erasmiana delle opere di Gerolamo compare nel settimo volume, dopo la traduzione delle omelie origeniane sul Cantico, un commentario esegetico in Iob Commentari, che spiega il libro di Giobbe seguendo passo passo la nuova editio, cioè la traduzione latina del testo biblico, non più dal greco dei 70, gli antiqui traslatores, bensì direttamente dall'ebraico, che è proprio il metodo inaugurato da Gerolamo nei suoi grandi commenti veterotestamentari. Non fa dunque meraviglia che questo testo a Gerolamo sia stato attribuito. Erasmo lo ha trascritto da un codice del IX secolo, oggi conservato a San Gallo, dove si può leggere «Incipit commentarium et moralis sive mystica interpretatio, beati Hieronimi cardinalis in librum Iob». Anche se l'incipit è aggiunta di mano posteriore, XV secolo, possiamo ragionevolmente supporre che la pseudoepigrafia risalga ad epoca assai più antica, antichissima anzi, se vogliamo dar credito alla testimonianza di Fausto di Rie, il quale, a metà del V secolo, cita un passo di questo commento a Giobbe, introducendolo con le parole «Sicut in quodam sancti Hieronimi tractatu legimus». Sta di fatto però che Gerolamo non ha mai commentato il libro di Giobbe. D'altronde basta una lettura sia pur cursoria dell'opera per escluderne la paternità geronimiana. Così lontane sono la sciattezza dello stile e la sintassi approssimativa dal dettato forbito e colto del famoso esegeta. Tant'è che quando si è presa consapevolezza dell'inconsistenza dell'attribuzione, si è relegata l'opera tra gli spuria e pubblicata infine nell'appendix ai commentari geronimiani delle lettere pauline in PL 26. Allora, chi l'ha scritto questo commento a Giobbe? In aiuto ci viene un'altra citazione, ad litteram, perciò inequivocabile, la menzione di una tesi sul flusso delle maree che Beda, nel De Temporum Ratione, capitolo 4, sostiene proposta da un certo Philippus, in esposizione Beati Job. In effetti, una exposition Job in tre libri è tramandata da un certo numero di manoscritti, alcuni dei quali l'attribuiscono a Filippo, definito semplicemente presbiter. È la stessa opera che nel 1527 Giovanni Sicard aveva fatto stampare a Basilea sotto il nome di Filippo, trascrizione di un codice da lui reperito a Fulda. Il confronto tra il passo citato da Beda e il corrispondente passo nella Cinquecentina basta a togliere ogni dubbio che si tratti della medesima opera. E così il confronto a tre, cioè il passo citato da Fausto e i due paralleli, sia nell'edizione di Erasmo, sia nell'edizione di Sicard, sta a dimostrare che quella che si riteneva opera di Gerolamo è invece da rivendicare a Filippo. Anzi, a questo punto si risolve una perplessità che non poteva non colpire raffrontando la citazione di Fausto con il testo erasmiano. Fausto, infatti, cita un passo più ampio di quello che noi oggi leggiamo in PL 26, cioè il commentario pseudo-geronimiano, e la parte mancante si ritrova nell'esposizio tradita sotto il nome di Filippo. Prova evidente che era proprio di Filippo, non di Gerolamo, l'opera da cui Fausto citava. Se poi allarghiamo...